Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Eccole le nuove regole, arrivate in un giorno nel quale i ricoverati crescono di 500 unità e di 45 quelli in terapia intensiva. Regole più morbide di quanto non si pensasse. Restano aperte per ora piscine e palestre, hanno tempo una settimana per adeguarsi. I locali devono abbassare le serrande a mezzanotte, mentre scatta qualche polemica sulla possibilità per i sindaci di chiudere strade e piazze a rischio di assembramento. Ce la scaricano sulle spalle, dicono i primi cittadini. Si riaccende lo scontro sul fondo salva stati, con il presidente del Consiglio che esclude l'uso dello strumento, generando irritazione nel PD e in Italia Viva. Mentre si guarda la manovra approvata sabato notte, con 4 miliardi per la sanità, sgravi per le assunzioni al sud strutturali e decontribuzione per l'assunzione degli under 35. Queste alcune delle misure previste. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6:31 minuti e 20 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, è lunedì 19 ottobre, buon inizio di settimana. In regia c'è Carmelo Lauricella, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, ci sono in redazione Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, come sempre, la squadra di 24 Mattino, che ormai Task Force non va più di moda. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, perché siete una componente fondamentale di questa Task Force, appunto. Ci trovate anche in diretta su Facebook. Ditemi un po' stamattina come vanno le cose, come la vedete, al di là delle nuove norme che sono arrivate con l'approvazione ieri di un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci arriveremo tra un attimo, anche semplicemente come vi sentite, eh? Forse è tornato il momento di starsi un po' vicini, visto il livello di guardia che si alza, eh? Allora, siete preoccupati, non siete preoccupati, come la state vedendo, come la state vivendo, quali sono le vostre esperienze personali, anche con il sistema sanitario? Se il Covid ce l'avete avuto, non ce l'avete, ce l'ha avuto qualche vostro parente. Via, quando volete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. L'Italia, dice il Presidente del Consiglio, non può permettersi un nuovo lockdown e quindi una nuova battuta d'arresto. Scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Peraltro, il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa, migliore di quella francese, tedesca, spagnola. Dice il Presidente del Consiglio, le palestre hanno una settimana per allinearsi e poi le palestre e le piscine, poi semmai procederemo con la chiusura. Sentiamo un passaggio di quest'audio. Daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Ma sì, lo dico a Hermes, quando dico è il momento di starsi più vicini non intendo fisicamente, perché anzi, per carità, è il momento di starsi un po' più lontani e però vicini, eh? moralmente vicini, psicologicamente vicini. Massimo 6 persone a tavola. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone al tavolo, per tavolo, singolo tavolo, e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno dei locali il numero massimo di persone ammesse nel locale in base ai protocolli di sicurezza. Nella pubblica amministrazione, riunioni solo a distanza e incremento dello smart working. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto che tutte le riunioni si svolgano con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Incrementeremo anche, con un provvedimento della ministra Dadone, le modalità per far ricorso allo smart working, quindi al lavoro a distanza. Oh, poi qualche ascoltatore, se volete discutiamo anche di questo, ritorna, c'è un po' questa fissazione che gira da qualche parte sul sistema svedese. Facciamo come gli svedesi, non facciamo il lockdown e vedrete che le cose andranno bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei contagi. E però, in Svezia ci sono stati 6.000 morti contro i 278, per esempio, della Norvegia, che invece ha attuato misure più strette. In Svezia ci sono 100 contagi ogni 10.000 abitanti contro i 31 della Norvegia, per prendere un paese paragonabile. Un paese paragonabile perché, ragazzi, la Svezia ha un decimo della nostra densità abitativa. Possiamo paragonarci alla Svezia? Siamo seri, dai, su. Prendiamo paesi simili e paragoniamoci a paesi simili. Poi, se siamo disposti ad accettare questo, ad accettare un numero di morti maggiori, ma siamo disposti? Cioè, culturalmente, questo paese è pronto ad accettare una cosa di questo genere? Lo dico così, è uno spunto di riflessione e vi metto là. E poi il MES, però prima del MES, andiamo sul Covid e la scuola. Dice Conte, la scuola continuerà in presenza. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, intendo licei, tecnici, istituti tecnici e professionali, verranno favorite però modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e, se possibile, anche con turni pomeridiani. Per le università anche. Poi abbiamo avuto ieri ospite da Fabio Fazio, c'è stato ospite da Fabio Fazio anche il presidente campano Vincenzo De Luca, che ha così spiegato la scelta sulla scuola. Noi abbiamo preso questa decisione per una ragione molto semplice, perché l'unità di crisi della Regione Campania ci aveva segnalato la presenza di 800 persone contagiate fra personale scolastico e alunni. Però sapete quant'è il personale scolastico e gli alunni della Regione Campania? Siamo intorno alle 950.000 persone, quindi parliamo di uno 0,08%, uno 0,8 per mille, se preferite. Forse, chissà, se la scelta di De Luca è stata lungimirante oppure no, non lo sappiamo, siamo in una pandemia della quale non capiamo perfettamente i contorni. Cara Agnese Pini, come stai? Buongiorno, direttrice della Nazione, bentornata. Grazie. Oh, sempre un piacere averti. Allora, alla fine cosa è successo? Che doveva essere la grande stretta, il coprifuoco, un po' l'abbiamo montata anche noi, Agnese, sui giornali, in radio, in TV, e alla fine in realtà è una scelta molto morbida che lascia parecchio la palla in mano ai sindaci. Non so come la vedi tu, io devo dire, a me non la trovo una cosa pazzesca il fatto che si lasci la palla in mano ai sindaci, perché lo sanno loro quali sono le piazze nelle quali la gente si assembra, no? No, volevo sottolineare appunto questo fatto rispetto al DPCM illustrato ieri, che appunto cambia davvero pochissimo rispetto a quello emanato appena 5 giorni prima. Cioè, stiamo riassistendo in maniera opposta a quello che succedeva a maggio, no? Quando si è riaperto il paese piano piano, perché noi a marzo l'abbiamo chiuso in modo improvviso, a maggio l'abbiamo, tra aprile, maggio e poi giugno l'abbiamo riaperto piano piano, adesso sta succedendo la cosa opposto, lo chiudiamo ma piano piano, però ecco le differenze sono davvero minimali e mi preoccupa appunto la forte autonomia che questo DPCM lascia di fatto agli amministratori locali, nella irrisolta diatriba che abbiamo visto esplodere in maniera forte col Covid nel rapporto Stato-Regioni, qua si ripropone tutto il menù che ha portato poi alle tensioni e anche alle difficoltà di gestione, anche alle incongruenze a cui già avevamo assistito nel primo lockdown tra i poteri delle regioni e il potere del governo centrale, e già all'epoca dicevamo che questa diseguaglianza non era giusta, non tanto perché abbiamo visto appunto, così come la Svezia, e lo sottolineavi giustamente tu, ha poco a che fare con l'Italia, no? Per densità di popolazione, sistema sanitario, economico, eccetera, eccetera, anche le regioni italiane sono disomogenee le une dalle altre, e quindi le misure che possono essere valide per una possono essere meno valide per un'altra, ma lasciare in maniera così ufficiale ai sindaci, come ha detto ieri per esempio Conte, oppure vedere una regione come la Campania che chiude di fatto le scuole un po' arbitrariamente, anche perché la tua osservazione era giusta, quella percentuale è minima, è difficile avere una ricetta di buon comportamento, però su questioni del genere una regia, l'assenza di una regia centrale per ammissione, perché ieri appunto Conte ha messo nero su bianco che alcune decisioni vengono date totalmente nelle mani degli amministratori locali, secondo me ci può rimettere di nuovo di fronte poi a dei problemi a lungo termine, gli stessi che abbiamo già sì, se vuoi dall'altra parte, Agnese, una decisione in senso opposto avrebbe rischiato di creare lo stesso effetto, la stessa tensione, perché un po' è stato anche il fatto che il governo è stato coinvolto in riunioni infinite con i presidenti di regione per decidere cosa mettere in questo DPCM, cosa non mettere, si è concordato tutto fino all'ultimo dettaglio, compresa la questione delle palestre, compresa la questione del coprifuoco, eccetera eccetera. Dopodiché a un certo punto forse il governo avrà anche detto vabbè, me ne lavo le mani, allora volete l'autonomia? Prendete questa autonomia, no? Appunto, la sensazione che alla fine il governo forse anche per l'esperazione abbia detto me ne lavo le mani, ma è giusto, perché poi noi dobbiamo sempre chiederci questo, e poi è chiaro che tutto quello che viene deciso adesso non solo è difficilissimo, è estenuante, ma è davvero stretto nella famosa morsa tra sanità e economia, no? L'ho detto ieri, anche questo Conte l'ha detto in modo molto chiaro, per cui se nel clima di marzo prevaleva la paura che compattava il paese, ti ricordi i vari andrà tutto bene, i bambini dai balconi, cioè c'era un sentimento, un clima di paura molto forte, c'erano anche numeri diversi da oggi, no? Perché i numeri di oggi hanno appunto letti e calati in una realtà che è molto diversa da quella di marzo, è molto più preparata, si basa intanto su una quantità di tamponi che a marzo era semplicemente inimmaginabile, ha molti più asintomatici, ha molte meno persone nella terapia intensiva e rianimazione, e però c'è anche un clima nel paese che è molto più scettico intanto nei confronti del Covid, e ha più paura di restare senza lavoro che non dei rischi sanitari, almeno in questa fase, in questo momento. Quindi prendere le decisioni più drastiche rischia intanto di scatenare bombe sociali e poi di essere molto più popolare di quanto non fosse stato a marzo. Quindi sì, da un lato è difficile trovare la quadra con le regioni, dall'altro è anche davvero molto complesso prendere decisioni. Sì, oggi. Per prendere misure drastiche bisogna arrivare in piena emergenza. Ricordiamolo, adesso naturalmente lo dico agli ascoltatori, e poi su questo in molti ci scrivono, è ovvio che in questo momento non siamo in piena emergenza, è evidente. Ci sono dei punti di sofferenza in alcuni ospedali, ma è molto semplice il ragionamento. Lo dico perché a volte questa cosa non si comprende bene. le degenze per Covid, quando uno viene ricoverato per Covid, generalmente le degenze non sono delle degenze brevi, ok? Quindi se tu hai un tot di posti per ricoverare le persone e la degenza delle persone che sono già ricoverate è lunga, è facile e abbastanza rapido trovarsi senza posti per i ricoveri in ospedale e in ospedale in particolare in terapia intensiva. Il tema è esattamente questo, cioè è un problema essenzialmente sanitario questo. E lo abbiamo raccontato e spiegato più di una volta. Cosa farvi sentire ancora? Beh, poi sabato notte è stata la nota dell'approvazione della manovra, manovra nella quale ci sono molti elementi che hanno a che fare col Covid naturalmente, i ristori per i settori che verranno colpiti dai prossimi provvedimenti, ha fatto sapere il ministro Gualtieri, oltre che 4 miliardi per la sanità. E quindi noi abbiamo invertito un trend che purtroppo durava da molto tempo, ha aumentato le risorse per la sanità pubblica e continuiamo a farlo in misura molto significativa con questa legge di bilancio, con circa 4 miliardi a cui poi si aggiungeranno le risorse del recovery plan. Molto per il lavoro, decontribuzione per 3 anni se si assume un under 35, l'estensione della decontribuzione per chi assume al sud e l'intenzione di intervenire sul tema dello sgravare le donne dal lavoro di cura e portarle un po' di più nel mercato del lavoro. Gualtieri. Quindi questo è un esempio del lavoro di cura che deve essere sgravato dalle spalle delle donne, dove spesso in modo poi ingiusto, perché deve ricadere alla pari sugli uomini e sulle donne. E poi dall'altra parte sostenere l'occupazione femminile. Tra l'altro questo è uno di quei casi di politiche, diciamo, win-win, perché quei settori della cura alla persona e alla famiglia, che spesso sono fondamentali per sgravare le donne dal lavoro di cura, sono anche i settori in cui è più alto il tasso di occupazione femminile. Traffico. Un ascoltatore via SMS dice: vado e vengo dalla Svezia, state dicendo cose non corrette. Ci mandi la sua, ci mandi un WhatsApp audio, quello che vuole, ce la spieghi. Quello che abbiamo fornito noi sono i dati della Svezia raffrontata per esempio alla Norvegia. Per rimanere nei paesi dell'area, ovviamente, per non raffrontarla a paesi molto diversi come sono il nostro, che forse è più raffrontabile per esempio alla Francia, alla Spagna o cose di questo genere. Come ogni lunedì mattina in questo periodo ci dedichiamo un po' agli Stati Uniti, al voto in arrivo, però non parleremo solo di questo con Lorenzo Pregliasco. Lorenzo, te lo preannuncio, cofondatore di Utrend e dell'agenzia Quorum. Lorenzo, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, e però partiamo proprio da qua. Ci dai un'idea di come stanno andando i sondaggi? Perché questa esplosione di Biden nell'ultimo periodo è credibile secondo te? Ma diciamo che se si guardano i sondaggi nazionali c'è un vantaggio di Biden in media di circa 10 punti su Trump. La cosa che però dobbiamo dire è che negli Stati Uniti, per come funziona il sistema elettorale, non conta il voto nazionale, non viene eletto presidente chi ottiene più voti a livello nazionale. Conta il voto nei singoli stati, e nei singoli stati Biden è comunque favorito per avere la maggioranza dei cosiddetti grandi elettori. Per dire un dato, è davanti di più di 5 punti negli stati che 4 anni fa andarono a Trump a sorpresa, cioè Pennsylvania, sì, Michigan e Wisconsin. Però insomma, chiaramente finché non si vota non si può avere la certezza che che questo vantaggio perché questi 5 punti sono un margine molto molto più stretto dei 10, no, che gli vengono dati di vantaggio a livello nazionale. E in più mancano quanti? 10, 2 settimane alla fine della campagna elettorale, e là non si sa mai, come sappiamo. Sì, 2 settimane esatte, chiaramente insomma può succedere ancora molto. A oggi possiamo dire che Biden è nettamente favorito, se ci fidiamo dei sondaggi. Almeno questo è quello che sembra. Come raccontava bene Lorenzo Pregliasco, lo sapete, non è che il voto popolare corrisponda necessariamente alla vittoria, cioè al fatto di diventare presidente degli Stati Uniti, perché come ricorderete anche nella scorsa elezione, Lorenzo, Hillary Clinton ottenne, mi pare, 1 milione di voti in più rispetto a Donald Trump, eppure non fu eletta, no? Quasi 3 milioni di voti. 3 milioni, considera che nelle ultime 5 elezioni presidenziali 2 volte è successo che il vincitore del voto popolare, cioè chi ha ottenuto più voti a livello nazionale, poi non ha vinto perché non ha vinto abbastanza grandi elettori negli stati giusti 4 anni fa, ma anche nel 2000 Gore fece lo stesso. Quindi effettivamente le elezioni americane sono un tipo di elezione in cui il dato nazionale serve un po' ad avere un'idea di quali sono gli equilibri, ma poi quello che conta è vincere negli stati giusti. Lorenzo, una domanda che in parte ci arriva da un ascoltatore, cioè la rigiro io un po', la sistemo un po' io. Il cosiddetto scandalo Biden, ossia quelle email, è una questione complicatissima e che ha a che fare con una serie di livelli, nel senso che si sospetta che su quella vicenda ci sia la mano della controinformazione russa, quindi stiamo parlando, o della disinformazione russa, quindi stiamo parlando di cose sulle quali non c'è molta chiarezza. Quelle email del figlio che ottenute dal New York Post, che sono state diffuse, che proverebbero un interessamento di Biden, una pressione di Biden da vicepresidente sul governo ucraino, detta molto brutalmente, hanno avuto qualche impatto, hanno mosso qualcosa apparentemente? Per adesso no, per adesso non sono state particolarmente incisive, ecco, direi sul dibattito in generale, ma anche poi sugli orientamenti di voto. Una cosa che dobbiamo dire è che in questa campagna elettorale è successo davvero di tutto, anche solo nell'ultimo mese, e mi pare che nessuna delle cose avvenute nell'ultimo mese sia andata nella direzione di cambiare radicalmente l'equilibrio di questa corsa, che vede comunque un vantaggio importante ancora di Biden, un po' in tutte le rilevazioni. Allora, Lorenzo Pregliasco resta con noi, Agnese Pini resta con noi, vi faccio sentire un audio e vorrei un commentino da voi su questo. Sì, ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma, perché penso che chi ha una possibilità di prendere questa che è la città dove è nata in fondo anche la cultura occidentale e riportarla tra le grandi capitali europee, beh, lo deve fare. È un dovere, insomma. Quindi, io penso è un dovere e una grande avventura, quindi sì, lo farò. E vabbè, lo avete riconosciuto tutti, è Carlo Calenda che ieri da Fabio Fazio ha sciolto la riserva: mi candido a sindaco di Roma nel bene e nel male, col PD, senza il PD, poco importa. Agnese Pini, che dici? Ma, e dico che messa giù in questo modo è una maniera per rompere un po' le scatole al Partito Democratico, no? Anche in un'ottica di cui si è parlato fin dalla fine delle ultime amministrative, quindi quelle di settembre, di nuove alleanze anche sulle grandi città che andranno al voto nel 2021 tra PD e 5 Stelle, quindi nel solco, no, di un abbraccio più forte, anche non solo programmatico ma anche ideologico, tra le due forze che adesso sono al governo nelle realtà locali, partendo proprio dalla sfida nelle grandi città, questa candidatura chiaramente ripone e riapre dei problemi nel braccio di ferro, perché poi questo abbraccio tra PD e 5 Stelle non è visto nello stesso modo da tutti gli esponenti, tanto dei democratici quanto dei pentastellati. Quindi ovviamente ripropone e ripone anche solo l'annuncio della candidatura a una serie di tematiche sul piatto che andranno a terremotare un po' sicuramente. Lorenzo, in 30 secondi dall'aria che gira, che senti, ha qualche speranza Calenda? È una buona domanda, nel senso che noi non sappiamo con quale schema si andrà al voto, cioè Calenda intende candidarsi con chi, intende essere a capo di una alleanza, diciamo, larga di centrosinistra, beh, in quel caso è ipotizzabile, insomma, che una candidatura di quel tipo possa magari andare a ballottaggio e giocarsela a ballottaggio. Diverso il caso in cui Calenda abbia in testa di candidarsi da solo, meglio fuori da un'alleanza che fa perno intorno al PD, a quel punto chiaramente diventerebbe più difficile. Una cosa, Simone, sul tempismo, sì, di questo annuncio: effettivamente, se vogliamo, non è stato forse il momento ieri sera in cui l'annuncio ha avuto la massima visibilità, no? Nel momento in cui il DPCM, esatto. DPCM, sì, non furbissimo dal punto di vista della comunicazione, però è vero che Fabio Fazio, quindi sai, comunque la dimensione del contenitore dal punto di vista degli ascolti è una dimensione importante. Allora, grazie Lorenzo Pregliasco per essere stato con noi, Utrend, agenzia Quorum, Agnese Pini, direttrice della Nazione, visto che siamo su Roma, dalla rassegna stampa magari parto proprio da questo, vi leggo solo il titolo: AMA, che è l'azienda, quella, la municipalizzata dell'ambiente, ai lavoratori dei cimiteri un bonus se si fanno trovare. Partiamo da qua, subito dopo il GR. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it.